città. Cambiano le cose e con loro cambia la mia età. La mia vita, quella è uguale, chissà quando cambierà. Apro la finestra del mio attico all'ultimo piano. Guardo fuori, guardo lontano, la lontano il cielo voleva. Chiudo gli occhi, poi li riapro, sono in volo anche sulla città. Un saluto, una mirata, mi risveglio e torno alla realtà. Cosa cerca un uomo quando prende il volo? Cosa pensa di provare o cosa vuol realizzare? Cosa pensa di trovare per non sentirsi solo? Che cos'è che ha dentro al cuore che fa tanto rumore? Sono rialzato, quante volte ho detto basta, ho ricominciato. Quanti cerchi ho disegnato nella terra che ti ho creato. Quanti mi ho riempiti di quella merda che gli ho iniettato. Cosa cerca un uomo quando prende il volo? Cosa pensa di provare o cosa vuol realizzare? Cosa pensa di provare per non sentirsi solo? Che cos'è che ha dentro il cuore che fa tanto rumore? Sono nato in una via di periferia. Ora la mia vita è finita. Cosa cerca un uomo quando prende il volo? Cosa pensa di provare o cosa vuol realizzare? Cosa pensa di provare per non sentirsi solo?